mondo, sempre sulle frequenze di Onda Rossa, ma abbiamo al telefono un compagno di Bologna che in cui ieri sono andati sotto al carcere della Dozza a manifestare la propria solidarietà e la propria vicinanza ai detenuti e alle detenute che si trovano rinchiuse in quel carcere, e lo abbiamo contattato proprio per farci raccontare quale fosse stata la loro esperienza e la realtà che si sono venuti a incontrare. Quindi Martino, ci senti? Sei al telefono? Sì, ciao a tutte. Niente, sì, come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, tazebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza. E insomma, io ho partecipato a questo saluto, e niente, che è stato abbastanza breve, nel senso che successivamente siamo stati fermati da un dispiegamento di forze veramente surreale, un'infinità di mezzi veramente impressionante, e però diciamo così che siamo riusciti ad avere un contatto e una chiacchierata con la gente dentro, e purtroppo va detto che le condizioni alla Dozza sono ancora veramente tremende. E ricordo che appunto Vincenzo, come magari molti sapranno, è un detenuto che è morto di Covid il 2 aprile, e da allora nella sua sezione, che è la S3, sono stati trovati positivi il 50% dei detenuti, questo stava qualche giorno fa su Bologna Today, e insomma a seguito di questa cosa qua ci sono stati oltre 30 trasferimenti verso San Gimignano, verso il carcere di Tolmezzo. E anche per chi rimane la situazione è agghiacciante, nel senso che le infermiere del carcere sono state distrutte durante la rivolta, e quindi nel senso le condizioni in cui versano i prigionieri sono tremende, non hanno l'ora d'aria, e peraltro poi gli aprono però le celle durante l'equivalente dell'ora d'aria, quindi cioè, sono comunque costantemente lì dentro, e le voci che ci arrivavano erano disperate. E su tutto quanto forse andrebbe anche ribadito sempre che il responsabile capo di medicina penitenziaria dell'ASL di Bologna, tale Roberto Ragazzi, fece girare una circolare interna datata al 24 febbraio in cui dava precise disposizioni agli operatori sanitari all'interno del carcere di non utilizzare mascherine e guanti, perché queste avrebbero potuto far agitare i detenuti. Quindi tuttora mascherine e guanti i detenuti non li hanno, hanno diritto solamente alla telefonata semplice, senza WhatsApp o cose Skype, cose di questo tipo, a loro spese. Ecco, la condizione è attualmente questa, e insomma direi che insomma è abbastanza sostenibile. Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano, a far sentire la vostra vicinanza. Sì, questo si è riusciti, tra l'altro anche avendo una strana inversione dei ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovverchiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà dei detenuti dentro, che ci hanno tenuto compagnia, insomma, e quindi insomma è anche bello vedere come c'è questi meccanismi, no, di rottura dell'isolamento, insomma, cioè come magari la presenza dei solidali fuori può essere un minimo di garanzia rispetto all'incolumità di chi sta dentro. Questa cosa vale anche al contrario, cioè se reciprocamente ci si aiuta mutualmente, ecco, insomma, siamo un po' più garantiti dal rischio di subire proprio la brutalità del potere, dei suoi tutori. Perfetto, allora grazie mille Martino, se ovviamente avete o hai aggiornamenti rispetto a quelle che sono le condizioni all'interno del carcere della Dozza, ti invitiamo a farti sentire, E niente, ti ringraziamo molto e ti abbracciamo forte. Pronto? Ci senti? Non sto sentendo. Sì, sì, sì. Niente, erano semplicemente dei ringraziamenti e dei saluti. Ok, grazie mille a voi dell'opportunità. Grazie, un abbraccio. Dai. Ciao Martino, un abbraccio. Dai. Ciao. E allora un po' di musica ancora, si passa a Re Bibbia, restate all'ascolto.